scritto sui denti. Carissimi amici, benvenuti a questo terzo episodio di questa cosa estemporanea che ci siamo inventati questa estate, un extra di popcorn dedicata ai film brutti e alla fine è piaciuto questa cosa, così ve la siete trovata sul gruppone all'improvviso e siete stati contenti. Questo ci fa molto piacere. Faremo un'altra 2 o 3 puntate al massimo e poi insomma chiudiamo proprio tutto e torniamo a settembre, perché insomma questo è il nostro destino. E sono ovviamente qui con me sempre con Marco Gualdi. Ciao Marco. Ciao, no, sono rimasto molto colpito da questo film nippo, esatto. Mi piace. Beh, eri scettico all'inizio, no, alla fine della puntata scorsa. No, non ero scettico, io ti ho detto che questi film è inutile perché noi dobbiamo vedere il film quello, ma questo io non posso definirlo un film. Allora sì, allora aspetta, qui c'è un motivo per cui ho voluto inserire, diciamo, per forza questo film, perché, allora, per i cultori e tutto sommato... andandolo proprio a guardare non è né un film brutto né tecnicamente fatto male, però diciamo che io, che non sono mai stato uno molto affezionato, diciamo, a un certo tipo di cultura che è quella delle cose fantascientifiche giapponesi, diciamo, sono rimasto un po' sbalordito quando ho visto i primi 5 minuti del film, poi sono stoppato perché ho detto questo lo dobbiamo vedere con Gualdi, perché tutto quello che noi vediamo, diciamo, negli anime, nei manga giapponesi che abbiamo visto a partire dagli anni 60, 70 e 80, alla fine c'ha veramente una radice culturale importante all'interno del mondo giapponese, perché questi pure quando facevano i film era quella roba lì. Perché allora, quando si parla di supereroismo giapponese, il culto del supereroe, comunque dell'eroe giapponese, è quello. Cioè, sì. Gli americani ce l'hanno una, noi ce l'abbiamo un'altra. Hai ragione. E i giapponesi ce l'hanno così. Hai ragione, però. Diciamo, il uomo mascherato, misterioso, che è un po' il Superman, il Batman dell'epoca, loro, ovviamente. In salsa loro. Che però a volte ti risulta. Cioè, nel senso, guardandolo con gli occhi occidentali, mo è vero che qui stiamo parlando del film degli anni 60, adesso diciamo anche che film era. Se tu comunque lo guardi con gli occhi occidentali, è un po' la versione. Cioè è un po' ridicolo, tutto così bambinesco, no, questa cosa. I giapponesi hanno proprio questo richiamo un po'... Che è molto fumettoso, cioè le loro storie poi. Allora, diciamo che adesso mi uccideranno tutti quanti cremanti del Giappone, ma i sceneggiatori dell'epoca, insomma, fino agli anni 80. Se rifacevano... Ma, cioè, nella stragrande maggioranza delle situazioni, non è che facessero tutte queste grandi storie. Spesso si perdevano i pezzi, non giustificavano le cose, facevano succedere le cose perché sì... Insomma, erano un po' così. Poi c'erano quelli che lavoravano un po' meglio, quelli che lavoravano un po' peggio, però la cosa era spesso un po' raffazzonata, però funzionava tutto sommato alla fine. Cioè, quindi anche questa alla fine tutto sommato funziona. Ti lascio alcune domande. Sì, no, ma adesso ci arriviamo, perché poi c'è, cioè, nel senso, non è il livello di bruttezza delle cose di cui parliamo di solito, però poi alla fine c'è, al di là dell'ingegnerità di fondo, c'è proprio delle cose che tutte domande all'inizio e Gualdi ti dice no, ma non ti preoccupare perché i giapponesi per cultura poi spiegano tutto, poi a metà del film le domande sono sempre le stesse, non ti preoccupare, e alla fine finisce il film e ti hanno spiegato un cazzo. Esatto. Però la domanda è perché non ti hanno spiegato un cazzo. Esatto. Magari ci sono dei seguiti delle serie, non lo sapremo mai, perché esatto, non ci interessa, non ci interessa e non ci documenteremo. Comunque il film in italiano si intitola L'astronave fantasma. È un film che arriva a noi doppiato in inglese. Tra l'altro, curiosità, quando arrivò in Italia fu ovviamente rimontato, ritagliato, ricazzeggiato, sì. I nomi furono cambiati ovviamente in inglese, perché non puoi chiamarli Satoshi, Musashi, Katashi, come poi fa. E il titolo di quell'epoca era Il regista e i protagonisti. Cioè, non ho capito in che senso. No, non è vero, è una cazzata. Ah, ok. No, vabbè, però noi nel doppiaggio italiano i nomi sono giapponesi. No, i nomi sono giapponesi. In italiano furono praticamente invece cambiati i nomi, sia giapponesi che del regista, del protagonista. Invece le chiamasse Hirohito Akaga o Soshito Male, che sono i nomi degli attori, venivano chiamati George Michaels, Frank Dawson. Ah, tu dici nei titoli di testa furono completamente cambiati. Ok, sì, che poi è un film, tra l'altro, che parte con dei titoli di testa molto strani, cioè tipo il titolo che dura un minuto e mezzo, che sta lì e ti dice, From Neptune, come era? Sì, non mi ricordo, non lo so, ti ho mandato la scheda, dovrebbe esserci scritto lì, però adesso la devo trovare. Esatto, l'ho mandata su WhatsApp. No, quello che compare, eh sì, l'astronave fantasma, che in italiano invece era Invasion of the Neptune Man, cioè l'invasione degli uomini di Nettunesi. Esatto. Che stavano cazzati con quelli di Anzio, un casino, d'Occhio. E vabbè, diciamo, allora, perché l'ho scelto questo film, ve l'ho detto, nel senso che tutto succede molto all'inizio, poi c'è, diciamo, un film con dei ritmi un po' sbilanciati, diciamo così, poi non succede poco e niente durante il resto del film, tranne ovviamente le solite terminologie elettroniche. Ricordate, qualsiasi, la barriera elettronica, lo scudo elettronico, il flusso elettronico, l'arma elettronica, i razzi elettronici e i raggi elettronici. Lo scudo elettronico, abbiamo detto? Sì, lo scudo elettronico. Poi 7 nani, ne manca sempre uno. Che lo scudo elettronico è poi il fondamento del film. Esatto, quello che incula tutti, lo scudo elettronico. Perché come inizia questo film? Inizia praticamente con dei ragazzini che stanno guardando, tra l'altro lo trovate su YouTube come sempre, tra questi canali che distribuiscono, e la cosa bella è che è la versione del montaggio originale del film, infatti ci sono alcuni pezzi che è il doppiaggio, è il doppiaggio inglese, non è il doppiaggio italiano, che mancavano i pezzi probabilmente perché noi li tagliavamo, sono delle cose che non c'erano. Perché tu devi capire che a volte nei film il nostro adattamento era reinventarsi un po' la storia e dice, vabbè, ma qui io ho finito di dire la frase, cioè tutto quest'altro pezzo del filmato non serve a niente. Ecco, perché poi i giapponesi parlano troppo, cioè per dire acqua dicono quindi tagliavano. Diciamo, il film giapponese è fatto da giapponesi, recitato in giapponese, doppiato in inglese, qui in americano, anzi con doppiaggio terribile perché in quelle poche cose che si sente, e poi ovviamente con l'ulteriore rilacciare italiano con quel non vogliamo sapere anche che, cioè, secondo me il film parla proprio tutta un'altra cosa. Esatto. Secondo me non sono neanche di Nettuno questi, esatto, secondo me sono di Anzi, appunto. No, ma infatti sembra strano, però praticamente dei bambini che stanno facendo delle cose scientifiche, perché sanno che questo è un film, allora questo quando ci sono i bambini è sempre un film per famiglia, quindi comunque è rivolto anche ai bambini, perché comunque c'è il supereroe e quindi è rivolto anche a tutta la famiglia, cioè il supereroe è l'amore per la scienza, no, anche, no, diciamo così, perché praticamente questi sono dei bambini che, diciamo, hanno libero accesso in un laboratorio super scientifico giapponese. Beh, se ci pensi, tutti gli anime dei robottoni che sono sempre meno un ragazzino che ha accesso a qualsiasi, esatto, questi invece sono più ragazzini, esatto, sono un po' una sorta di Goonies moltiplicati per 4 che possono accedere a qualsiasi cosa, insomma, che a un certo punto, mentre fanno praticamente questa scampagnata per fare questi esperimenti scientifici, in parte ricordati bene cosa stavano facendo in pieno giorno, esatto, stavano facendo questa scampagnata per fare le cose scientifiche, si erano portati dei telescopi perché in pieno giorno, quindi con tutto, insomma, volevano guardare tramite i telescopi il passaggio del satellite americano, che sto satellite americano non solo non l'avresti mai visto, però era la pietra dello scandalo di tutto il film, perché se gli americani hanno lanciato sto satellite e se i giapponesi non si davano pace, chissà che cosa ci verranno fare con sto satellite. Però uno di questi ragazzini, esatto, interpretati da da Makemane, appunto scopre che male perché casca spesso, si vede praticamente dal binocolo, da cannocchiale, vede una cosa che passa e così a cazzo, perché col dito lui riesce a triangolare esattamente il punto dove è caduto questo, quindi vanno lì e non è che è una cosa che è caduta, è proprio un gigantesco razzo che è atterrato compostamente, insomma, in maniera disciplinare, del quale nessuno si è reso conto, esatto, perché è formato, poi spoileriamo, la riga tra l'altro è formata di Pagno e Rogio, due famosi, e questo loro lo scoprono dopo e da lì capiscono che questi tavola periodica stanno dietro la tavola. Però cioè tutti gli elementi della periodica scritti a cazzo di Pagno e Rogio, e da lì loro capiscono che vengono da tutto, perché sono dei materiali che è stato solo e tra l'altro questa conclusione non ci arrivano solo i giapponesi, ma ci arrivano tutto, che sta raggio Pagno, e poi che c'è sta nelle discoteche, no, i cozze e i cozze, vabbè, comunque questi, sto razzo tutto, a un certo punto Sì, ragazzini si avvicinano per curiosità e escono fuori degli uomini con delle tute argentate e le i caschi a supposta, diciamo la verità, erano dei caschi a supposta. Sì, diciamo, vabbè, però diciamo che quelle sono cose che abbiamo visto in tantissima roba. Però quelle erano i Minion, perché i Minion avevano queste antennine rotanti, gli anellini che rotavano, e quelli erano i Minion. E poi c'era il capo che invece c'era il disco attorno alla testa. Per la corona. Sì, e poi un disco, un 45, no, un 33 giri infilato sulla supposta. Però quello capivi che era il capo. Sì, diciamo che era una sorta di preservativo metallico con le lucette. C'erano, perché fantascienza degli anni 60 è lucette, ripetono sempre. A cazzo. E con una specie di visiera, quindi noi non sapremo mai che aspetto. Però io ti inviterei ad imitare il loro linguaggio. Adesso l'ho dimenticato, guarda, tipo... Che poi è pure qui, insomma, è un, diciamo che i rumoristi degli anni 60 e 70, ce n'era uno solo, si è inventato una cosa e da lì tutti hanno fatto. Beh, ma quello è molto alieno. In realtà tu ti sei lamentato la poca presenza nei dialoghi. In realtà ci sono tantissimi dialoghi che sono in nettonese, quindi non è che si capisce. Hai ragione. Non c'è stato mai chi sottotitolo. Comunque sti suppostoni a un certo punto vedono sti ragazzini, gli vanno incontro tipo i zombie. Quindi potete capire che il cattivo, lo zombie o per esempio il robot assassino, sono tutte creature che si muovono lentamente. Lenti, inesorabili. Esatto, inesorabili ma lenti, come la mummia, no? I primi film sulla mummia, questi con le braccia tese verso di te, e cammina lentamente verso di te. E la stessa cosa facevano questi. No, riescono a cercare i bambini, malgrado essere lenti. Stavano quasi per... Esatto, però essendo inesorabili riescono a cercarli. Ne cercano. Fanno per strozzarli, ma lì... Fino a che arriva un momento incredibile. Esatto. Ragazzi, perché da lì ho capito... che questa cultura del Power Ranger, dell'anime, del manga, delle tutte quelle cose, sicuramente c'è un nome, c'è una parola giapponese per indicare, probabilmente che sì. Se non ha suscito male una cosa del genere, però la Tsunaga, yeah. E praticamente arriva questo tizio con una Cadillac volante, ma magari la Cadillac era bianchina, era bianchina volante con un razzo dietro, che quando a terra è un razzo a pieno regime, quando le ruote, insomma, quando decolla c'è il fumogeno dietro. Ma vabbè, ma queste sono le piccolezze, diciamo, di un'epoca meravigliosa, che era quella del, quando vedevi questi film rimanevi stupito, perché dicevi come avranno fatto. E scende sto tizio da questa specie di navicella, che è un tizio col casco e la classica visiera colorata davanti agli occhi, che vedi in Goldrake, in tutti, cioè nel senso, e la mantellina. E la mantellina che comincia a menare tutti questi suppostoni, praticamente con, diciamo, con un'evoluzione, la chiamerei con un'evoluzione più tecnica del jiu jitsu di Mr. Moto, insomma. Esatto, cioè nel senso è un po' jiu jitsu, un po' Bud Spencer, diciamo. Però l'idea è quella, con la tutina, l'idea della tampo dei Power Ranger da solo, cioè nel senso è proprio quella logica lì, no? Che tu vedrai in tutti i film giapponesi, esatto, certo, Power Rangers che danno, che anzi, ma qui non, questo tu devi capire che questo film, tu non hai visto il tizio fare le mosse, non ha fatto le mossine. È vero, perché ancora non c'erano arrivati. Non ha fatto le mossine, però cioè, qualche mossina la fa, lo sai quando? Per menare, però. Quindi. Sai quando lui combatte, quando c'è il combattimento aereo, poi dopo ci arriviamo, e c'è l'inquadratura di lui che è abbastanza statico, però quando fa tipo che sta per sparare, lui fa così con la spalla. Sì, perché va a premere i pulsanti, no? Esatto. No, le cose, quindi ci sta. Però c'è le mossine a cazzo di quelle tipo Sailor Moon, Power Rangers, no, vabbè, si presentano. Ancora non c'erano arrivati a questo, cioè nel senso ancora se tenevano, diciamo, una certa decenza, e poi alla fine, poi dopo successivamente arriveranno. E quindi lì arriva lui che a sganasoni praticamente tutti sti... Posso dire, sì, tu, no? Fondamentalmente li avrei preso a schiaffi pure io. Sì, quindi, sì, questo l'abbiamo detto. Anche i ragazzini avrebbero preso a schiaffi, però erano spaventati, diciamo, diamogli il beneficio dello spavento. Ma la cosa più bella è che mentre Power Ranger sotto prendeva a schiaffi questi qua, il capo dei nettunensi si è affacciato alla finestra. Oh, questi stanno a pieni schiaffi. Oh, richiamali tutti che se davo. Infatti. Loro... Perché lui lo sa perché c'ha avuto questa idea? Perché c'è 33 giri intorno alla testa, esatto. Mica il coglione. E quelli li ha richiamati. Esatto, beh, ma se no era il leader, no? Cioè, nel senso, tutto sommato. e praticamente che succede? Succede che loro, insomma, rientrano tutti quanti dentro. Ricordiamo che questo razzo ha una porta, cioè nel senso, non la porta a scorrimento, roba, cioè proprio le porte con le ante, tipo i saloon, praticamente, sta cosa un po' così. È una porta a due ante. Esatto. Insomma, che c'ha da dire con tre porte a due ante? No, per carità, è tutto a posto. È anche elegante, insomma. Tutto sommato. E praticamente loro se... fanno venire praticamente dei fulmini, cioè loro, cioè lì non si capisce che cazzo succede, non succede. Esatto, però lo tipo nostro uomo, un po' il nostro uomo mascherato tira fuori la sua arma di energia, esatto, elettronica, e spara un colpo su questo missile, così, senza nessun motivo. Infatti lui stesso se ne rende conto, prende la pistola, se la rimette in saccoccia e questi se, questi se ne vanno, perché hanno capito, insomma. Però hai visto che c'era tipo la porta, era un ascensore, poi si... quello è stato quello non è scema, non male assolutamente, infatti. Ed è qui praticamente si ripana tutta quanta la storia, quindi ci stanno questi ragazzini che stanno più o meno sempre rompe il cazzo, però trovano su tutte che le soluzioni, crede nessuno. Trovano tutte le soluzioni ai problemi involontariamente, esatto, e mandano avanti la trama loro, fondamentalmente. All'inizio nessuno li crede, giapponese, all'inizio nessuno li crede, ma è difficile credere a dei bambini che dicono guarda c'è stato, sono arrivati gli uomini spappati, ricordati, gli uomini spaziali, ma poi è arrivato lui, tonno insuperabile, esatto. Sei ammenato, perché questo si chiama l'insuperabile, esatto. Per noi è il tonno insuperabile. Tra l'altro il protagonista che fa sia il protagonista che il tonno insuperabile, che come al solito non sono mai, questo lo dice lei, ma non è vero, perché... cioè è il Gianni Morandi giapponese, esatto, è Gianni Morandi, c'è la stessa pettinatura. Facciamo subito uno spoiler finale, perché è importante, cioè, sì. Questo film ti lascia con un paio di domande, fondamentalmente, che è quella praticamente di capire chi cazzo è l'insuperabile, il tonno insuperabile, chi cazzo, perché non te lo dice, cioè te lo fa, no, capire, non è soltanto questo, allora è perché esiste l'insuperabile, cioè lui come personaggio, perché, esatto, da dove viene, che fa, perché, esatto, c'ha le armi elettroniche, cioè, nel senso lui non pensa, che ne sa che vengono alieni, cioè nel senso, quindi lui già sapeva, e soprattutto questa tecnologia, quindi la pistola a raggi e la bianchina spaziale, chi la date, cioè dove, cioè, esatto. Però lui, essendo uno scienziato, cioè la sua parte è stato uno scienziato, lui queste cose magari se le è costruite da solo, insomma. Non lo sapevo mai. E poi, esatto, poi Bruce Wayne, noi ci aspettavamo che ci spiegassero, cioè, che c'è questa cosa classica degli scienziati che hanno le soluzioni per tutto, esatto, quindi c'è una barriera elettronica che ciccia fuori, guarda, noi abbiamo una barriera elettronica, se ci bombardano, perché a un certo punto fanno arrivare i missili nucleari, le bombe atomiche. No, non fanno arrivare i missili nucleari, sì. No, loro fanno esplodere una centrale nucleare in America e poi lanciano la bomba atomica in Giappone. No, adesso tutte e due erano due centrali nucleari. Una è, infatti, in America, quando loro dicono anche in America hanno fatto esplodere la centrale nucleare. No, perché ti ricordi che loro pensavano che avessero bombardati? Pensavano, ma in realtà hanno fatto esplodere la centrale. Non c'avevano centrali nucleari in quel periodo, ce l'avevano. Ma no, nel 64 ce l'avevano. Ma con l'America allora ce l'avevano. No, ce l'avevano, secondo me. Vabbè, comunque. Vabbè, c'è questa esplosione nucleare, non si sa dove, perché... Però vicino, vedono la luce, vedono il fungo. Insomma, tutto... Però sono state soltanto tipo 84 vittime, tutto sommato. niente di che, insomma, tanto oramai loro sono abituati, se pensavano, e questo ricordiamo, noi lo diciamo scherzando, però ricordiamo che i giapponesi, secondo me, sono rimasti... Cioè, ci hanno dietro questo retaggio, di questo trauma collettivo. Uno ci dice, scherzo, però, insomma, ci dobbiamo anche pensare seriamente, no? Tu immagini una popolazione che ha subito un attacco nucleare, insomma, sta cosa non può non rimanerti nella capoccia. Infatti, cioè, già da subito questo elemento del nucleare, della distruzione, cioè, c'è sempre in tutte le cose. Non so se hai visto il film di Giashan, no? Sì, la voglia. Terribile, ma no. Voglia. E quello sarebbe un film di cui parlare, no? Perché quello è tutto. Quello è un film brutto. Quello è proprio brutto. Quello è un film brutto. Cioè, tecnicamente non è anche male. Era bello, è fatto bene. Però c'è tutta la seconda parte che c'è, cioè, questo monologo folle. Comunque, insomma, scoppiano queste cose. E allora, però, dicono: ma se adesso questi vogliono invadere il Giappone, perché poi si do tutto il mondo. Però prima il Giappone. Prima il Giappone. Questo pure su Goldrake, sugli altri del Manzing, è sempre così. Insomma, prima il Giappone, perché il Giappone va in base, dice: ma no, non c'è problema. Parlano gli scienziati, perché noi, il super scienziato, abbiamo la barriera elettronica. La barriera elettronica. Ma come funziona la barriera elettronica? La barriera elettronica è una sorta di cupola. Che può coprire tutto il mondo, che può coprire con gigaglione di gigawatt, esatto, tutto il mondo, però più estendi la dimensione della barriera, e più e meno la barriera è efficace. Quindi loro circondano Tokyo. Ma cazzo ce ne frega del resto del mondo? Anche perché quelli vanno solo su Tokyo, giustamente. Esatto. Ma perché dovrebbero essere gli altri? Anche questi tunensi si sono proprio fissati con questa cosa che devono attaccare a Tokyo. Perché cioè non è che ci stesse, no. Sono andati in puzza, sono degli schiaffi, gli schiaffi non l'hanno sopportati, non lo sopportare, non possono sopportare, non possono perdonare gli schiaffi, è così, è una cosa che fa parte del loro sviluppo antropologico, cioè. E quindi praticamente succedono cose in questo film, quindi succedono che praticamente fanno, dire, perché io ci ho scordato, fanno misure e contromisure, quindi questi fanno la barriera, quest'altro dice oh, no, gli mandano la sonda, che trovano sempre i bambini, dove dicono guardate che voi avete la barriera elettronica, ma noi la supereremo perché noi siamo superiori, abbiamo tecnologia superiore alla loro tecnologia. Ah, sì, perché poi gli mandano un messaggio. La loro tecnologia superiore sarebbe quella di mandare gente travestita da soldati, però truccati, che c'è tutto il fard, tutte quante linee, cioè gli occhi colorati, insomma. Quindi proprio passavano inosservati. Tu immagini un soldato truccato, cioè non passi. Quello lo fanno per il pubblico. Con le armi atomiche. Esatto, cioè tu la prima volta che utilizzi un clone all'interno di un film, non è un devi clone, fa... è un camuffaggio. Sì, diciamo, un camuffaggio, devi far capire al pubblico qual è i suoi buoni e i suoi cattivi, capito? Cioè, invece, perché se... poi avendo tutte le facce uguali, giusto? Esatto. Ecco, sono giapponesi. Sono giapponesi. C'hanno dei fucili atomici. Cioè, quando sparano, esatto, lasciano, schiacciano contro il muro e ti lasci la sagoma come una bomba. E anche quello. Ieri c'è il richiamo. E anche lì c'è il richiamo, insomma, a Hiroshima. Però alla fine riescono a sventare pure questo. Man, perché il tonno insuperabile interviene. Però sembra che muoia nel tentare di sventare questa cosa. Questo complotto. Scoppia, c'è un'esplosione nei locali della barriera elettronica. Famosi locali della barriera elettronica. E quindi tutti pensano che sia morto, e quindi lascia la bianchina parcheggiata lì, ma nessuno ci fa caso. Poi però il protagonista Ikebana, che nel momento era sparito, nessuno riusciva più a trovare, perché in quel momento dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe personare il tonno insuperabile. Ikebana torna, dice no, tranquilli, io non mi è successo niente, ma perché, ma cosa siamo chiesto che ti è successo, fondamentalmente sei sparito, come. Quindi ritorna, tutti pensano che sto tonno insuperabile sia morto, però in realtà poi si scopre che la barriera è salva, perché la barriera è stata trasportata, spostata sull'astronave, non so che astronave sia, perché non ci ho capito un cazzo, io a questo punto mi sono perso. A un certo punto se siamo arresi. Se siamo arresi, però questa cosa la annunciano ai 420, al telegiornale, perché esatto, così almeno tutti sono contenti, e avvisano pure gli alieni, portarci vostra, avete nascosto, e allora facciamo l'attacco a tappeto. E lì c'è una bella sequenza di attacco a tappeto. Allora, bella sequenza, allora diciamo una 64 cosa. È una bella sequenza. Allora, diciamo che tecnicamente è fatta bene, perché poi dopo da qui, anche qui questo film è una sorta di prototipo per tutto quello che verrà nel futuro. Esatto. E ti faccio vedere una cosa, non si vedono i fili. Non si vedono i fili. Non si vedono i fili. Si vedono le esplosioni dei palazzi, perché è una cosa che loro poi dopo da lì in poi andranno in fissa. Vi ricordate quelli che combattono in mezzo alla città? No? Ho letto che sono stati presi pezzi di documentari della seconda guerra mondiale. Sì, vede. Probabilmente per qualche cosa. Quindi non è neanche poi tanto effetti speciali quanto ovviamente l'utilizzo dei materiali appropriati. Comunque è tutto molto credibile. Sì. Cioè, è fatto bene. Anche un bel composito, cioè, ci sono i palazzi che scoppiano sopra la gente. Poi, ovviamente, non fanno vedere che cascano i materiali sopra, perché, ovviamente, non sono credibile, certo. Però, lo fanno il twist. No, dai, comunque era fatto bene. E poi c'è questa battaglia spaziale, una battaglia aerea, la possiamo chiamare, perché tra il siluro del tonno insuperabile, esatto, la scatoletta di tonno, fondamentalmente, e i piattelli volanti dei nemici, perché loro praticamente lasciano questi piattelli. E poi, questa cosa non è un po' anche questa, è Goldrake. Ti ricordi che Goldrake ogni volta c'erano sulle puntate, prima lanciavano gli UFO, no, che non servivano a cazzo, servivano semplicemente a fare un po' di casino, non servivano a cazzo, solo per fare minutaggio, e poi dopo arrivava, e quindi c'è questa battaglia spaziale che è molto lenta, molto ripetitiva, a volte alcune sequenze si ripetono ovviamente, però tutto sommato ben fatta, cioè sì, con i raggi, insomma, devo dire gli effetti speciali sono pochi. Però tutto sommato ci posso dire che sta. Alla fine stiamo parlando di un film che tutto sommato è un bel film. Cioè, nel senso, è un film che va visto. Però secondo me io l'ho messo in questa categoria. Esatto, dei film, perché comunque viene da una cultura che mi ha fatto capire che evidentemente ha radici molto più lontane di quanto io mi aspettassi su questo tipo di narrativa loro, questa cosa che poi abbiamo visto negli anime. e nei manga, però poi allo stesso tempo c'è anche quella ingenuità, cioè nel senso quel dare per scontato che vabbè è così, cioè nel senso è come dice Superman, però Superman una storia ce l'ha, invece questo non ce l'ha una storia, non sappiamo, non viene palesemente neanche detto che sia il dottor Ikebana, come cazzo vabbè, si chiama, però si capisce, però te lo fanno capire, il cioè, problema è che però c'è il tempismo e il montaggio soprattutto, che poi va a capire se è quello originale o se è il rimontaggio, non si può capire. Comunque il montaggio delle sequenze tra il tonno insuperabile e Ikebana non c'è, è talmente sbagliato, sì, sì, che sembra che passi talmente poco tempo tra l'immagine e l'altra che non potrebbe essere lui, perché dovrebbe fare centinaia, cioè se non qualche chilometro così, puff, ma soprattutto insuperabile come fa a sapere il momento esatto in cui intervenire, cioè ok dopo quando arrivano i soldati fake e tutto quanto, no? Però per esempio i bambini che stanno sul prato e sono aggrediti dagli uomini spaziali, non lo sapremo mai, cioè lui che ne sa che sta succedendo sta cosa, perché lui probabilmente ha un radar elettronico, esatto, naturalmente elettronico, tutto elettronico, che gli fa capire quando c'è bisogno di intervenire, quindi l'allarme con l'allarme elettronico. Allora io ne ho voluto parlare perché secondo me è importante dal punto di vista proprio del capire come nascono le cose che poi diventeranno ovviamente. Quindi sì, nel senso, se non avete questa esperienza nei confronti dei film giapponesi, secondo me questo film, nella sua ingenuità, comunque ci racconta da dove un po' parte tutta questa mitologia e fantascienza giapponese che vedremo in tantissimi film, perché voi non sapete, ma c'è proprio una schiera infinita dei film giapponesi su queste cose qui, e poi ovviamente gli anime, i manga, anzi prima e poi gli anime e tutto quanto. E quindi è un po' una curiosità, diciamo, proprio questo film. Poi è fatto bene per certe cose ed è brutto perché c'è tutta quella, diciamo che se cercate la coerenza non c'è, lasciate stare, cioè è molto ingenuo, no, diciamo proprio secondo me non si pone proprio il problema, era puro intrattenimento. Quindi ricordate, l'astronave fantasma lo trovate su YouTube, ovviamente la risoluzione bassissima perché voi immaginate che questo sarà stato catturato e digitalizzato da una vecchia videocassetta, immagino, quindi la risoluzione, la videocassetta elettronica ovviamente, esatto, 320x240 la risoluzione, quindi non guardatelo su schermi grossi come abbiamo fatto noi perché vedete tutto un po' smarmellato, insomma, diciamo tutto sminchiato. Detto questo, allora la prossima puntata invece ascolteremo tre interventi, diciamo, di tre nostri amici, quindi Marco faremo l'intro e l'outro, diciamo riposiamo, diciamo, in questo caso, però alla fine della prossima puntata magari vi diciamo qual è una delle ultime puntate che faremo, perché ci siamo ricordati dei film anzi un film che lui mi ha fatto vedere a me e l'abbiamo già dimenticato entrambi, quindi dobbiamo decidere se rivederlo perché è un trauma quel film, esatto, oppure raccontare quello che ci ricordiamo e basta. Io non mi ricordo un cazzo questo... non mi ricordo un cazzo, l'ho visto, cioè da parte da bambino non lo ricordavo, mi ricordavo due scene, ci sono dimenticato pure quelle, cioè, adesso c'è la scena che a me mi è rimasta impressa che vale tutto il film, tipo la lama che praticamente viene lanciata che va tipo per diagonale, cioè vabbè, poi ne parleremo. Quindi grazie Marco, grazie a tutti che ci avete ascoltato, grazie a voi e grazie anche a Soshido Matt che è il famoso regista grazie allora. E grazie a tutti quelli che ci ascoltano e quelli che fanno le donazioni, esatto, soprattutto loro, esatto. E ringraziamo anche i tunesi perché insomma abbiamo parlato male stasera, ma cioè pure loro ci hanno dato gli idea, chissà se faranno un film con gli invasori da Anzio, chissà, che non lo sappiamo, oppure da, che ne so, anziani sarebbe. da Ostia, pazienza. Ciao, buonanotte, ciao.